Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait enflé, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mieux plus que jamais. Io devo ringraziare sinceramente la Fondazione Silvana Paolina Angelucci e il maestro che ha realizzato quest'opera, perché ci permetterà di avere questa presenza e questa sensazione profonda qui nel cuore di questa piazza, che è la porta d'accesso della nostra città, una porta d'accesso difficile, carica di contraddizioni, in cui si intravede il bello e il brutto di questa grandissima città che è la città di Roma. Ecco, io mi affacciai alla facciata principale della stazione Termini, come faccio ogni giorno, sul far del pomeriggio di mercoledì passato, e sentii questa garrula musichetta di banda. Ancora ciò che avete sentito doveva accadere, quindi c'era un grosso mammozzone incappucciato. Mi piacque vedere quel gigantesco fantasma di fronte alla stazione Termini, con la grande tribuna appena allestita, con la banda che suonava, con i bambini, i vigili, i preti, le monache, i curiosi, i bambini, tutti battevano le mani, e c'erano le autorità, cardinali, vescovi, ministri, sindaci, tutti avevano in mano un grosso nastrino bianco che finiva dove finiva quel mammozzone. Da lì a poco avrebbero scoperto la statua. Una statua che in realtà apparve subito al primo colpo d'occhio come qualcosa che era indefinibile da un punto di vista estetico. Io che l'ho vista ogni giorno, almeno 2 o 3 volte al giorno da mercoledì passato, oggi devo dire che ne ho provato tenerezza. Oggi a vedere che attorno a quella statua c'era quei giardinetti di prato finto che si fanno in 3 o 4 minuti e si costruiscono soltanto per le autorità, era stato allestito un roseto di rose bianche, gialle, meravigliose, in onore del Papa, perché quella era la statua, come tutti saprete, di Oliviero Reinaldi, che raffigurava Papa Wojtyla, che era stata messa lì in occasione della beatificazione del Papa e del suo compleanno, era stata inaugurata con grande pompa di fronte alla stazione Termini, per ricordare ai viaggiatori appunto il Papa che tanto ha regalato alla storia, all'emozione, alla spiritualità, non soltanto dei romani, ma di tutti i fedeli di tutto il mondo, nati, vivi, morti, passati, futuri. Beh, vedere questa mattina le rose del roseto piantate nemmeno 5 giorni fa in onore della statua che avrebbe dovuto commemorare il momento più solenne della beatificazione di un papa, già marcite, già seccate, come le tombe di quelli che non hanno parenti, che dopo il funerale uno va a vedere la tomba, dopo 3 o 4 giorni sono solo soltanto fiori secchi che nessuno va a rimettere fuori freschi. Cioè significa che attorno a quella statua c'è un grosso imbarazzo. Il grosso imbarazzo nasce dal fatto che è irrimediabilmente, drasticamente, oggettivamente bruttissima, ma non tanto perché non rappresenta il Papa nelle sue fattezze. Ieri l'altro c'era una manifestazione di polacche che urlava lì sotto: non è lui, non è lui, non è un polacco. Non dice nulla, l'arte interpreta, l'arte immagina, non è detto debba essere somigliante, no, ma perché dà l'impressione di essere una cosa fatta in 4 e 4-8, sembra una grande cupola, una campana in cui hanno attaccato in maniera sghemba un capoccione che somiglia tanto ai capoccioni del Duce di una volta. Questa sorta di campana aperta in un luogo in cui drammaticamente ci sono delle realtà di emarginazione molto forti. Io che passo la mattina presto vedo che c'è una popolazione intera di clochard che usa ogni lampione, ogni albero, ogni anfratto della piazza di fronte alla stazione Termini per i loro naturali fisiologici bisogni. Mettere a loro di fronte questa sorta di invitante garitta, cupola, abitacolo che potrebbe tutelare la pudicizia, sembra quasi di mettergli un invito a usare in maniera impropria, blasfema e oltraggiosa quella statua. E poi naturalmente poi la popolazione si è sfogata immediatamente nel dare le descrizioni più folli, ma come accadde per la Tour Eiffel, come accadde per il Vittoriano, come accadde per monumenti che partono come orribili ma poi diventano nell'immaginazione, nella consuetudine, facenti parte del paesaggio. Probabilmente, come ha detto il sindaco Alemanno, ci abitueremo a questa statua, o probabilmente sarà rimossa. Già questa mattina leggo su Repubblica che 13.600 voti sul web dicono togliamola. Grazie, il web è antagonista per sua natura, nessuno direbbe teniamola. Io tutto sommato, dopo aver sorriso per quanto mi sia sembrata grottesca il primo giorno, oggi quasi mi fa tenerezza. Povera statua del Papa che nessuno vuole, tutti vorrebbero demolire, distruggere. Chi la paragona a un parcheggio per la smart, chi dice appunto che la sua funzione più ignobile sarebbe quella che invoglierebbe ad usarla, chi grida all'oltraggio, dice: ma vi immaginate un papa così importante, una statua così brutta? Ma se il papa è santo, se ne frega, con tutto il rispetto, delle statue che gli fanno gli uomini. La cosa è che non induce né raccoglimento né allevazione. È una statua immanente, è un grosso campanone di bronzo in cui hanno attaccato un capoccione sopra. Questa mattina c'era una suorina con il suo trolley a rotelle che si era fermata davanti, era perplessa. Ho provato a sfrucugliare, gli madre che ne pensa, è molto brutta, vero? Guardava, rimaneva lì, non ha avuto coraggio di dire nulla per paura che fosse qualcuno che potesse rapirle un commento che magari avrebbe potuto pesare sulla propria anima. Beh, questa mattina la domanda è: esiste probabilmente una sorta di sottile, mellifua, impalpabile e difficilmente identificabile dittatura del brutto? Il brutto si è impossessato delle nostre città. Esistono delle ufficiali affermazioni di cose brutte che deturpano le città, di cui nessuno si accorge. Perché? Perché oggi sembra prevalere l'estetica del brutto rispetto a quella del bello. Perché ciò che appartiene al passato, ciò che è segnato alla consuetudine, ci sembra più bello di quello che viene fatto oggi. È un vecchio antico discorso, ma questa mattina vi prego, chiamate all'800 24 00 24 e segnalatemi ciò che considerate veramente brutto nelle vostre città. Se esso edificio, sia statua, sia costruzione, sia arredo urbanistico, ciò che dite: ma guardate quanto è brutto, guardate che schifose panchine, guardate che orribili cestini, guardate che orrendi lampioni, guardate che statua orribile, guardate che edificio che hanno fatto, guardate che chiesa orrenda. Le chiese che a onor del vero, sia anche dal punto di vista del peggior mangiapreti, sono la cosa più bella che hanno le nostre città, a un certo punto in poi hanno cominciato a diventare brutte. I preti sono impazziti, hanno cominciato a commissionare orribili catafalchi terrificanti che sembravano tombe di cimiteri di campagna di persone che hanno fatto i soldi, quindi volevano una tomba moderna per distinguersi da quelle più antiche, e le chiese sono cominciate a diventare brutte. 800 24 00 24, cos'è che è veramente brutto che vi indigna? Ma lei l'ha vista? Guardi, le sembra il papa che noi abbiamo conosciuto? Non è Wojtyla, è Tabacci, primo. Secondo luogo, sembra una bombola del gas scoppiata. Signora, lei piace? No, non è il papa. Da lontano ho detto: oddio, ma chi è? Sembra un residuo di qualche cantiere edile. Sono tutti alla ricerca di un'immagine familiare che non trovano. Specifichiamo, è una scultura, non una statua. Va interpretata dunque, e nelle intenzioni dell'artista che si è ispirato a questa di immagine c'era la volontà di rappresentare il papa dell'accoglienza. Le linee sono essenziali, il volto stilizzato, troppo, decisamente troppo, obiettano i passanti. 800 24 00 24, non è il giudizio del passante. Il passante per sé probabilmente tende subito a rifiutare ciò che è nuovo. Non vogliamo questa mattina fare una trasmissione di tono passatista. È bello ciò che è classico, è bello ciò che è figurativo, è bello ciò che ricorda le cose per quello che sono. Può essere bella anche un'interpretazione folle, ma esiste un principio di discrimine del brutto nelle nostre città? Esiste un criterio oggettivo che definisca ciò che è brutto, ciò che è bello? È molto difficile. Vediamo se ci riesce a dare una mano Massimo Ilardi. Massimo Ilardi, buongiorno. Buongiorno. Massimo Ilardi è docente di sociologia urbana nella facoltà di architettura di Ascoli Piceno. Tra i suoi libri ricordo Il tramonto dei non luoghi, Fronti e frontiere dello spazio metropolitano, 2007, Meltemi. La statua del Papa, che tutti oggi indicano come il massimo oltraggio a un Papa, ma non credo che sia questo il problema, che sia oggettivamente brutta, proprio di fronte al non luogo dei non luoghi, che è la stazione Termini. Lei l'ha vista, innanzitutto che giudizio dà di quel luogo? Della statua, lei dice? Sì, della statua, certo, sì, del passaggio. Ma senta, io sono appunto un sociologo urbano, però ecco, prima vabbè, un giudizio personale, sì, individuale. Ecco, un giudizio, ecco, per dare un giudizio su quella statua, io, come dire, sono andato sul sito dello scultore, diciamo così, dell'artista. Di Rainaldi, che ha fatto anche 2 anni di teologia, ha studiato teologia, quindi non improvvisato. Ecco, allora io dico che quella statua si situa, come dire, nella ricerca che questo artista sta facendo da anni. Quindi lui non ha colpa. Quindi non solo non ha colpa, ma se noi vogliamo dare un giudizio estetico, in base a che lo diamo questo giudizio estetico? In base intanto alla ricerca che l'artista sta facendo, se cioè quella statua si inserisce a continuità, come dire, a innovazione rispetto a quella ricerca che continuamente quell'artista sta facendo da anni. Quindi allora, chi ha scelto quell'artista in quella piazza ha fatto una sua scelta dicendo che secondo me questo è il segno che voglio dare. Altrimenti andava dai tanti artigiani di San Lorenzo qui a Roma, faceva fare una bella statua identica al Papa, identica a e tutti erano contenti. Papa, e tutti erano felici e contenti. Purtroppo è vero che viviamo un'epoca dove ormai il giudizio estetico bello e brutto ha soppiantato qualsiasi altro giudizio politico, etico, morale, per cui noi ci interessa solo è bello, è brutto, è bello. Però se vogliamo rimanere in questo giudizio, allora ci dobbiamo, come dire, dimenticare, dobbiamo scardinare questa continuità storica che ormai ci ammorba, per cui tutto viene giudicato, lo ricordava anche lei nella sua introduzione, per cui tutto viene giudicato in base ai canoni del passato. Esattamente. E quindi il passato viene visto, ci hanno insegnato purtroppo, di vederlo come una eredità, no? Per cui non si deve assolutamente modificare perché è l'eredità dei nostri padri. Guai a distaccarsi da questa autorità perché altrimenti facciamo delle cose brutte. E questo è disastroso. Nel momento in cui vediamo il passato è come siamo un popolo di conservatori nel momento in cui ragioniamo così. Cosa sarebbe Parigi senza la Tour Eiffel? E quando fu deciso di lasciarla all'indomani dell'esposizione nazionale del nuovo secolo, in effetti tutti dissero: ma come, questo schifo di metallo, cosa c'entra? Ma non sarebbe stata neanche la Cappella Sistina di Michelangelo. Assolutamente, certo. Avessero seguito i giudizi dei contemporanei, insomma, no? Allora noi dobbiamo invece, come dire, sfidare attraverso le opere d'arte la contemporaneità, insomma, con un linguaggio nuovo. Quindi però allora non fare i sondaggi via web per dire la volete o non la volete, perché questa mattina mi sono innamorato, perché mi fa tenerezza, questa statua abbandonata. Ci sono i vigili che la presidiano per pure qualcuno la insulti, ci sporchi, ci tiri sopra le mele marce, i fiori sono appassiti, ormai è già moritura, quando in realtà uno dovrebbe avere il coraggio di dire: ho fatto una scelta, come ha detto giustamente lei, ho scelto un artista con un particolare percorso, ricordo, è un artista che ha studiato per 2 o più anni teologia, è perfettamente inserito nelle estetiche di gradimento delle gerarchie ecclesiastiche, quindi mi meraviglia anche un po' questo voltafaccia improvviso che tutti dicono non è all'altezza del ricordo del Papa. È chiaro che la sensibilità popolare che ha visto per mesi vendere santini, statuette, macchinette luminose con il Papa che appariva, calcomanie, ologrammi con il Papa, e che è abituato a una certa iconografia, ne è in parte turbata, ma quindi bisogna fare uno sforzo, non dico di educare, ma di dare dei segni di maturazione estetica nelle masse, forse è questo. Ovviamente sì, noi abbiamo avuto il coraggio, e qui lo dico anche provocatoriamente, abbiamo avuto il coraggio di sostituire la statua di Marco Aurelio perché il tempo la rovinava e al posto suo ci abbiamo messo, come dire, un'icona da Walt Disney. Cioè noi abbiamo nei confronti del passato un senso di, come dire, di prostrazione che nessuna generazione precedente alla nostra ha avuto, senza capire che il passato vive solo se sfida il presente, non conservandolo dentro un museo o conservando le sue regole e verso le quali non bisogna assolutamente trasgredire. Sfigo, in sfondo a porte aperte io sono per la sovrascrittura di ogni idea, di ogni pensiero, a me piace vedere il tempo che lentamente corrode le vestigia del passato. Ma moriamo tutti, perché non devono morire queste cose, perché non devono morire anche attraverso linguaggi nuovi, no? Mi trova perfettamente d'accordo. Sentiamo qualche ascoltatore, così ci confrontiamo anche un po' con l'opinione del pubblico. Tina, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io chiamo da Rimini, cioè io non intervengo sulla statua del Papa perché bella, brutta, non sono io quella che deve dirlo. Dato che lei parlava delle bruttezze che hanno fatto in giro. Sì, se n'è una, la racconti, ce la descriva, però dobbiamo vederla, sì, per la radio. Io le vorrei parlare di Cesena, Piazza del Popolo e la Rocca Malatestiana. Noi abbiamo una Rocca Malatestiana a Cesena che è bellissima. Cioè, aveva un parco, che ce ne sono pochi perché era molto grande, Dica cosa vede adesso, perché voglio la descrizione di ciò che lei considera brutto. Lo allora, descriva con la sua sensibilità, senza fare sforzo. Esatto. Cioè, noi in quel parco, noi ragazzini, noi, io sono 60 anni, però ci sono cresciuta in quel ma parco. Il tempo è passato, come diceva giustamente Ilaria. Il tempo è passato, io posso capire che il vecchio può essere integrato col moderno. Cosa c'è adesso? Però quel parco aveva dei vialetti... Dica cosa c'è adesso, signora. Adesso, nei vialetti di terra battuta del parco, sì, ci hanno messo quei marmittoni di cemento che si mettono nei parcheggi. E per fare cosa? Per camminarci sopra. Esatto, tutti i vialetti in terra battuta che erano bellissimi, tutti in mezzo, sì, al bosco, perché il parco è un bosco. Ci hanno messo il cemento. Sì, ci hanno messo mano, a parte il cemento, ma ci hanno messo proprio quei marmittoni quadrati di cemento col ghiaino sopra che si mettono nei parcheggi. Ma probabilmente c'è una ragione di tipo pratico, le persone non si infangano, non cadono, no, non scivolano. No, guardi, lì non ci si infangava perché quella rocca è talmente vecchia che il terreno era talmente battuto, io ci sono cresciuta. Beh, questo le indigna, questo le indigna. Comunque. Questo mi indigna tremendamente. Sì, però non se la prenda, signora, anche su di noi metteranno dei bei marmittoni di cemento un giorno o l'altro. Sono d'accordo. E nessuno si indignerà per questo. Sono quindi d'accordo. Si figuri per il ghiaino della rocca di Cesena. Non vale la pena indignare. Sentiamo Ilardi, questo è un intervento urbano che indigna la signora. Probabilmente lei ha più strumenti di me per far capire alla signora cosa possa essere accaduto. Ma io, non conoscendo ovviamente il posto, sì, molto probabilmente delegavo se ci saranno. E sono anche delle normative oggi anche rispetto a normative molto. Non so, si rischia per esempio, e faccio il paragone rispetto a questo che conosco meglio, che si vuol mantenere a tutti i costi San Pietrini. Se ne riparla, ho sentito già un discorso criminoso. Una delle cose rimettiamo i San Pietrini, rimettiamo i San Pietrini a Roma. Che poi è una come dire, una tradizione non dell'antica Roma, ma una tradizione ottocentesca, per cui non avrebbe alcun senso anche rispetto al passato mantenere, dove ci si scapicolla, dove si spendono migliaia di euro ogni volta per rifarli, perché nessuno ma quello, è capace a metterli. Ma lei si è mai domandato che forse fosse proprio quello il problema? Sì, ecco, probabilmente sì. Che il San Pietrino è una fabbrica di San Pietrino, si finisce di farli, bisogna già ricominciare dall'altra parte. Ma certamente sì. Allora lì bisogna vedere se queste mattonelle di cemento che hanno messo nel parco, beh, insomma, se sono funzionali o meno, perché esistono anche dei giudizi funzionali. Ma probabilmente ci si può andare con le carrozzine, con le carrozzelle, con le biciclette. Sì, non lo so. Certo, se poi sono brutti, per carità di Dio, se rovidano, come dice la signora, ma non è che le dobbiamo misurare con quello che eravamo. Poi mi fa sorridere Ilardi, che noi rimaniamo appiccicati, calamitati alla nostra memoria biografica. Chissà cos'era quella rocca semplicemente un secolo prima della signora. Ma completamente diversa da quello che l'ha visto la signora. Non c'è più nulla di originale rispetto al passato, più nulla. Cioè, tutto è stato modificato nel corso del tempo, insomma. Con la stessa statua di Marco Aurelio non era più la statua originale di Marco Aurelio. Quindi che cosa dobbiamo salvare dalla corrosione? Sì, adesso ne è messa una che sembra di vetro resina, ma ormai ci siamo già abituati, secondo me, anche con l'intervento alla fine avrà il suo senso. Sì, certo, certamente è così. Io mi devono spiegare che qual è l'originale, cioè quale originale devo salvare. Rispetto a quale sovrascrittura e da quale epoca. Certo. Ecco. Grazie. Omero, buongiorno. Architetto. Buongiorno. Lei è un architetto, quindi sì. ha un giudizio corroborato dalla disciplina e dalla scienza. Io la ringrazio di questo. Vorrei articolare il discorso in due punti. A monte c'è un problema di etica, no? Allora, la centralità, io faccio l'architetto così come la considero una delle arti maggiori, così come la scultura, la pittura, tornando ai tempi degli antichi, la centralità di un incarico. Quando arriva un incarico, il professionista, pittore, scultore, architetto che sia, come centralità si deve porre l'espressione magnifica del suo magistero, della sua creatività, o deve mettere come centralità l'intenzione del committente, l'esigenza del committente? Allora, io non conosco questo artista e mi dispiace, faccio professione. Ma un sito internet, basta guardare Oliviero Rainaldi, si vede, ha fatto sempre allora, statue di soggetto religioso, e questa è la sua. E sta lavorando in quella direzione. Era dare corpo alle aspettative diffuse, generalizzate, eccetera, che non facevano tanto riferimento al committente fisico, quanto a quell'ampio paesaggio che poi si è rappresentata nell'affidamento dell'incarico da parte di una persona. Beh, dietro sullo sfondo c'è la stazione Termini, quindi centralità. Come centralità nell'incarico, l'espressione di questa di questo diffuso sentimento popolare, Sì, allora andava interpretato quello, probabilmente non andava a mettere... Ma allora avrei protestato io se mettono lì una statua di quelle che vendono nei negozi di ricordini intorno a San Pietro, avrei detto io, ma ragazzi fate uno sforzo. L'artigianato, non stiamo più parlando di arte, no? Anche se l'artigianato ha una sua dignità artistica. E poi volevo dire un'altra cosa, quando lei ha iniziato, diciamo così, la trasmissione, parlava di questo disdoro, di questa bruttezza dilagante nel paesaggio, ecco. È come se noi avessimo accettato però a monte che questa bruttezza ci abitasse dentro, l'abbiamo covata e poi si è riversata nel paesaggio che si circonda. Ma sicuramente ci abita dentro, guardi che l'Italia geometrizzata del dopoguerra in poi, le periferie italiane, evidentemente era qualcosa che avevamo già dentro, che è stato espresso poi in quelle orribili casette bifamiliari con la verandina fuori che non rispondono più a nessun progetto, a nessun piano, a nessuna idea. Ma come ci dice anche il nostro ospite, in questa fase è una fase di sovrascrittura della realtà, nell'insegna di questa sorta di approssimativa idea del paesaggio, probabilmente. L'osservo con l'indignazione quando qualcosa mi ferisce profondamente, ma consapevole del fatto che la mia indignazione nasce da una mia memoria legata a un periodo di quella piazza, di quel luogo. Magari c'è una grande latrina dove pascolavano vacche in epoche precedenti, quindi probabilmente tutto ciò che è stato fatto poi è stato un recupero del luogo. 800 24 00 24, a tra un istante dopo le informazioni della Borsa. Melog 2.0. Siamo in Piazza Affari a Milano, quella che vedete è la scultura ancora coperta di Maurizio Cattelan, e quello che sta facendo manovra adesso è il camion che dovrà appunto disvelare quest'opera che ha suscitato tante polemiche. Non ci credo, non credo a quello che vedo e non ho idea del come mai possa essere qua una cosa del genere. Secondo lei è offensivo? Beh sì, sicuramente lo è. Dipende da chi lo guarda, se è la coda di paglia o meno, lui può sentirsi offeso, sì. Io no, personalmente mi sono divertito vedendo questa cosa. Ma lo trovo un pochino discutibile, però vediamo poi cosa ne salta fuori. È un'opera d'arte di Cattelan. Che trovo un artista discutibile, inutilmente provocatorio. 800 24 00 24, stiamo parlando del concetto del bello e del brutto rispetto alle opere d'arte, agli arredi urbanistici, alle chiese, ai monumenti, alle strade, alle panchine, ai selciati dei giardinetti, come diceva una nostra ascoltatrice. Beh, l'arte è anche importante sentirsela dentro. Probabilmente il dito di Cattelan di fronte alla Borsa di Milano dava delle sensazioni non gradevoli a chi lo guardasse, ma l'arte deve avere anche un suo senso di profondità. Provocazione. E scegliere e commissionare un artista che fa della provocazione la sua essenziale cifra espressiva significa poi naturalmente sfidare quello che è il buon senso comune. Lo stesso vale per la statua di Oliviero Rainaldi di fronte alla stazione Termini, che vidi apparire in una sorta di cerimonia anni 50, tanto che feci un piccolo video, lo virai in bianco e nero e lo misi su Facebook dicendo inaugurazione della stazione Termini 1950. Tutti credettero che fosse veramente di quell'epoca. Invece questa mattina guardandolo mi faccia quasi tenerezza. Mi dispiacerebbe se la togliessero quel capoccione simpatico di fronte alla stazione Termini. Sentiamo qualche ascoltatore. Luigi, buongiorno. Buongiorno a tutti, io sono un napoletano che sa praticamente il pendolare fra Napoli e Milano, insomma, quindi da un certo quindi punto abituato di vista... a tutto, non si scandalizza, infatti, lei, per gli arredi urbani, tutto è meglio della spazzatura, dica. Questo è assolutamente vero, prescindiamo per un attimo da questa bruttura, insomma, parliamo di cose più belle come l'arte. In questo senso tenderei a essere un pochino contro quel concetto della sovrascrittura, insomma, come dicevate voi. Io credo che così come il senso del bello vada, come dire, un po' fotografato. Cosa le sembra brutto a lei in particolare? Andiamo a degli esempi. A me sembra, io la cosa che mi è venuta in testa quando ho cominciato a sentire la trasmissione è quella cosa orrenda che è stata fatta a Piazza Cadorna a Milano, a Lago il Filo di Oldenburg. Esatto, che trovo che sia una cosa di una cioè forse non è bruttezza in assoluto. Ma quello che colpisce il mio senso estetico è il fatto che era una piazza dall'architettura piuttosto composita, piuttosto bella, piuttosto austera. È bella, dove esce la metropolitana non è che sia proprio il massimo. Cadorna, sì, certamente uno dei pochi posti belli di Milano. Ma ecco, No, beh, è opinabile, sì. Sì, sì, opinabile, assolutamente. Ce ne sono di migliori, diciamo. Comunque dipende, va bene. Diciamo comunque quell'affare di Pongo colorato, giallo, blu e verde non le piace. Giallo, rosso e verde. Se posso fare un'integrazione a tutto questo. C'era da qualche anno hanno fatto una costruzione cilindrica orrenda sul retro praticamente della Scala, quindi quando si va nella piazza della Scala di Milano c'è praticamente quella costruzione, insomma, che è completamente disinserita, insomma, dal contesto. Lei conosce Parigi? Conosce lei Parigi? Certo che conosco Parigi. Del Centro Pompidou cosa le sembra? Perché anche lì... Il Centro Pompidou, ecco, questa è una cosa che devo dire, a me non piace molto, insomma, ecco, se devo dire, insomma, in questo... No, ma nel senso, queste costruzioni qui, queste cose qui, andrebbero fatte, cioè andrebbero scritte e fatte. E anche lì, da un punto di vista, diciamo, di estetica tradizionale, hanno ficcato una cosa che non c'entra niente, in un posto non c'entra niente, eppure è stracelebrato. Ok, è chiaro, questo è ovvio che qui c'è un, come dire... Dan Brown ci ha messo anche la chiave del segreto degli Illuminati, non so, le cose, dei Templari. Giacobbo c'è andato in pellegrinaggio più di una volta, quindi è un posto importante. Sono un fatto d'opinioni. Io non sono contrario in assoluto all'architettura moderna, anche se amo l'antico. Però credo che queste cose qui andrebbero inserite in contesti di loro. Ecco, noi quello siamo stamattina, di capire. Questa sovrascrittura che è una cosa che mi... lo so, dobbiamo capire con il nostro ospite se dobbiamo affidarci al senso comune, che è naturalmente passatista e tende alla conservazione, o fregarcene e sfidare i tempi in anticipo e dire noi sovrascriviamo, poi vedrete che... Più o meno quello che ha detto il sindaco Alemanno, ha detto vedrete poi ci farete l'occhio, l'ha detto in maniera più basic naturalmente, però è quello il fatto. Federica. Pronto? Andiamo. Sì, pronto, buongiorno. Io dovevo chiamare perché io ho il brutto aggettivo. Il brutto aggettivo è una statua, è una specie di monumento dedicato ai camionisti che si trova a Zola Predosa, sulla rotonda che porta a Bologna. È fatto così, è praticamente un omerel quasi, fatto... Bologna, scusi, è il personaggio chiave dell'estetica bolognese, l'umarel, giustamente. Allora, l'hanno preso come modello, ecco, hanno preso questo umarel, l'hanno fatto gigantesco, di una specie di una retina metallica a catena infrangente, sì. E sopra c'è un camion, cioè sostiene un camion che è tipo un modellino, quello dei bimbi, però più grande, gigantesco. Quindi è una sorta di supereroe dell'umarel, supereroe che tiene un camion sulla spalla. Sostiene un camion, e questo è il brutto oggettivo, sfido chiunque. Sì, però in una rotonda fuori della città, in mezzo alla campagna. No, non è in mezzo alla campagna, sono di Emilia, che è già famosa, soprattutto il tratto tra Modena e Bologna, per avere una serie di brutture. Non mi sembra che sia, diciamo, uno dei luoghi che hanno la palma del paesaggio più bello d'Italia, ecco. No, però via Emilia. Devo dire che questa statua, questa scultura, questa, non so neanche come definirlo, questo umarel è veramente il brutto giro. Va bene, l'ha detto, mi fa piacere, ha lanciato il suo grido di dolore. Marco. Buongiorno. Dunque, a mio parere la bruttura di queste opere che vengono messe in moltissime città italiane, ma non solo in Italia, riguarda un problema più vasto, cioè una mancanza di buon gusto, di arte da parte di scultori e architetti. Allora, facendo un discorso più ampio, fate caso come le case di oggi, i condomini, siano costruiti avendo cura di togliere tutto dall'estetica, per esempio tolgono i balconi, tolgono le cornici dei balconi, tolgono qualsiasi cosa. Se voi guardate un palazzo fiorentino di Siena, di Roma, di Milano, di Napoli del primi del Novecento, avevano cura di mettere per esempio tutti degli adorni a tutti i balconi, ecco perché sono belli. Oggi si sono punti di vista, oggi ci si fermano i gabbiani a Roma e quello che fa un gabbiano nel raggio di 2 metri dal proprio orifizio posteriore, guardi, non lo raccomando a nessuno. Però in compenso oggi abbiamo delle case che costano care, sono dei cubi senza balconi, senza niente, ed è, secondo me è squallido. Non si tratta di andare a guardare il passato, però sta di fatto che se lei guarda il monumento... Guardi, mi dispiace, io sono un... la mia religione mi porterebbe a distruggere tutti i balconcini, il balconcino che diventa l'ammasso delle scope, degli oggetti da umarelle, delle caldaie, dei condizionatori, dei panni da stendere, lo abolirei completamente. Il balconcino, secondo me, è stata la bruttura delle nostre campagne, quando hanno cominciato i geometri a fare le case con i balconi, quando davanti avevi distese di terra. Una battuta del nostro ospite, Massimo Ilardi, rispetto a quello che ha sentito adesso, poi la faccio parlare più ampiamente dopo le informazioni del traffico. Dunque, Comunque, siamo sempre allo stesso problema. Sì, c'erano soprattutto gli architetti che ponevano un problema forte, cioè come si deve rapportare l'architetto con l'artista, eccetera, rispetto al committente, no? Dice, nel caso della statua di Roma si diceva, beh, doveva in qualche modo essere sensibile alla, appunto al sentimento popolare, eccetera. Io dico che un progetto d'architettura vince, è forte, nei momenti in cui eccede il committente, nei momenti in cui cerca di sfidare il committente e il senso comune in cui viene inserito. Se non fa questo un progetto, è puro schiacciamento sul presente, sulla realtà. Anche perché il committente spesso è un mecenate, una persona che ha fondi da investire, ma non è detto che abbia una sensibilità spiccata o innovativa. È una brava persona che, piuttosto che spenderseli in donne di piacere, li spende in arte, in arredo pubblico. Ma non è detto che questo corrisponda a una sensibilità. Assolutamente perché... no, lo deve sempre eccedere. Il progetto d'architettura, l'architetto lo sa bene, o eccede il committente, eccede il senso, o non è progetto d'architettura, è un'altra cosa. Massimo Ilardi, ci fermiamo solo un istante. Diamo le informazioni del traffico, poi continuiamo con lei. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagages à chaque doigt. 800 24 00 24, stiamo cercando di dibatterci fra una valutazione estetica oggettiva delle nostre città, il senso comune che è piuttosto legato alla tradizione e la necessità, la volontà, il desiderio di rompere comunque con la staticità delle tradizioni e fare qualcosa di nuovo. Ora, nel fare qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso, si apre, come mi scrivono molti ascoltatori su Facebook, un grande dilemma. Come si individua quando esiste il tocco, la poesia, la capacità dell'artista, quando semplicemente sono degli arruffoni che mettono insieme delle cose? La pretestosità che spesso offre l'arte contemporanea è proprio questo. Difficile cogliere se non si ha una cultura, una tradizione, una sensibilità di individuazione dei percorsi, dei cammini degli artisti, di cosa stanno facendo, ciò che c'è prima e ciò che potrebbe venire dopo. Definire tra un artista semplicemente la committenza data all'amico degli amici che mette su una cosa obbrobriosa. Sentiamo cosa ne pensa il nostro ospite, Massimo Ilardi, che ricordo che è docente di sociologia urbana nella facoltà di architettura di Ascoli Piceno. Ilardi, il senso è questo: la gente dice sì, ma dietro il concetto di arte contemporanea si nasconde tanta mistificazione. Indubbiamente sì, io l'ho detto all'inizio, io non essendo un critico d'arte, se mi metto di fronte a un'opera d'arte o un progetto d'architettura, cerco di capire come quest'opera e questo progetto si inseriscono nella ricerca dell'autore. Cioè, la questione della ricerca è una questione fondamentale. Sì, ma il cortocircuito avviene quando poi questa ricerca entra in collisione. Deve entrare in collisione, secondo me. E avviene il cortocircuito, però si confronta con l'opinione corrente delle persone. Certo. Ecco. Certo, il progetto dell'opera d'arte deve entrare in collisione con la realtà, deve entrare in conflitto, deve fare innovazione, creatività, non può che entrare in conflitto per non schiacciarsi sull'esistente. Allora quello che occorre non solo la conoscenza del percorso dell'architetto e dell'artista, ma anche un'educazione verso l'architettura e verso la... C'era un ascoltatore che rimproverava gli architetti contemporanei di non fare più i balconi e i cornicioni. Ben venga, per fortuna, quella è la ricerca, diciamo, dell'architettura contemporanea. Ma che servono i cornicioni, per esempio? Stiamo restaurandoli nel nostro palazzo primi Novecento e ci costa l'occhio della testa. Nidi di gabbiani servono appunto. Ora, avevano un senso forse 100 anni fa, cioè, ma oggi che serve un cornicione, che serve un balconcino? Cioè lì c'è la sperimentazione di un nuovo modo di fare e di vedere l'architettura che va studiato, va capito, ci si deve interessare. Di fronte a un'opera invece non sappiamo che dire, bello o brutto, rispetto a chi? Rispetto alla nostra tradizione familiare, ecco, rispetto alla casa che abbiamo avuto da giovani, rispetto... Ecco, e quindi vede che c'è sempre la storia poi. Ma io sono d'accordo, ma infatti sfonda porta e dico, questa mattina ero venuto per fare una divertente trasmissione di presa in giro della statua di fronte alla stazione Termini. Vedendola questa mattina mi sono reso conto che già mi appartiene in qualche maniera. Comincio a capire, quel capoccione ha un senso lì davanti, ha un senso perché lì davanti passa di tutto, c'è di tutto, è un grande souk l'entrata nella città, e quindi è giusto ci sia qualcosa del genere. Mauro, buongiorno. Buongiorno, io vorrei intervenire in merito a quanto avete detto prima sulla potenza della cittadinanza non fa rimuovere determinate strutture che secondo i loro stessi. Sì, però a me fa paura questa potenza del consenso, perché il consenso sono quelli che vanno a demolire le statue dei dittatori dopo averci bruciato incenso davanti soltanto 3 giorni prima, è molto variabile. Certamente, no, ma vede, a Bergamo in fondo agli eventi c'era una statua pacchianissima che rappresentava di Arlecchino. Di Arlecchino, esatto, e l'hanno rimossa. Oggettivamente non trovavo potesse avere alcun senso, mentre per quanto riguarda la statua che hanno posto, di cui si stava parlando prima, oggettivamente un senso ce l'ha, va interpretato, ma ce l'ha. E parlando poi di riscrittura, mi viene in mente 1984, in cui in realtà non vengono rimosse le statue o le opere d'arte, ma vengono semplicemente riassegnati i significati ai simboli che poi il regime utilizza per sfruttare il passato. Quindi resta a vedere, non lo vedo bene per la sì, statua di... Ma diciamo che va a pari grado, lei ha sollevato un problema di tipo diverso ma abbastanza simile. L'iconoclastia di massa di fronte ai segni che sono in qualche modo che raccontano in qualche modo regimi, forme di governo, mode culturali, è molto sospetta. Lei cosa ne dice, Ilardi? Beh, comunque sono dei simboli forti, nel senso che l'abbattimento appunto di una statua di un dittatore o un simbolo di un passato regime deve per forza avvenire, insomma, cioè, come dire. Lei pensi che la caduta di Saddam, ce la ricordiamo con quella statua, che quando è stata abbattuta si è accorta c'erano dei grossi tondini di ferro che riuscivano dalle gambe, a me ha impressionato. La possanza e la forza del dittatore, che sembra piantato come un obelisco perenne nella terra, una volta tirato giù con le funi d'acciaio, escono 2 tondini, c'ha le gambine secche secche. È simbolico, sì, anche sì, qui sì, fa sì, parte della sovrascrittura della storia. Ma indubbiamente sì, devono essere abbattuti i simboli del potere, della dittatura, devono essere abbattuti, come deve essere esposto, io scusi se vado oltre, ma come deve essere esposto il corpo del dittatore non può essere nascosto, insomma, perché diventano simboli forti di un rinnovamento che deve iniziare. Non si possono nascondere. È il grande dilemma di un mese fa, l'abbiamo trattato alla radio, cioè, la scomparsa di Bin Laden, non si vedeva il corpo, non si è visto il corpo e quindi rimane un vacuum, un vuoto nell'iconografia, l'iconografia fatta anche di immagini di televisione, fatta anche di fotografie. Grazie Massimo Ilardi, noi siamo grazie arrivati alla fine, avrei tantissime telefonate di denuncia, c'è un signore Domenico che mi dice delle panchine in piazza Santa Maria Novella a Firenze, ma un altro signore mi scrive su Facebook, a Firenze tutto ciò che non appartiene al passato viene considerato orribile, infatti non c'è un museo di arte contemporanea. Noi abbiamo suscitato il problema, devo dire che il capoccione di fronte alla stazione Termini perlomeno è servito a farci riflettere su cosa ancora sia per noi considerabile bello e brutto e quanto siamo attaccati al bello soltanto perché appartiene al passato. A domani. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.